Letture di Radio 24. Nella prefazione al suo romanzo Jaber Crow, Wendell Berry scrive: chiunque tenti di spiegarlo, interpretarlo, districarlo, analizzarlo, decostruirlo o capirlo in qualche maniera, sarà mandato in esilio su un'isola deserta in compagnia degli altri interpretatori suoi simili. Meglio non correre rischi, dunque, non tanto per l'isola deserta, che magari potrebbe essere una valida alternativa al sovraffollamento delle nostre città, ma per l'idea non certo allettante di passare il resto dei nostri giorni in compagnia degli altri interpretatori. D'altra parte, la storia di Jaber Crow, barbiere di un piccolo centro rurale del Kentucky, non ha bisogno di spiegazioni. È lo stesso protagonista che, ormai anziano, ripercorre le tappe principali della propria vita e trasmette il suo amore per le vecchie tradizioni e la sua difesa della vita rurale contro l'invadenza dell'agricoltura industriale. In queste pagine, Crow parla dei cambiamenti avvenuti nell'immediato dopoguerra e dei rischi legati al processo di meccanizzazione. A quell'epoca comprare un trattore non era cosa insolita. Un mucchio di gente lo faceva. I giovani che erano stati in guerra avevano dimestichezza con le apparecchiature a motore. Il governo teneva corsi serali per insegnare ai veterani le nuove tecniche agricole. Trattori e altre macchine agricole erano diventati di colpo disponibili e la manodopera scarseggiava come non mai. Prese avvio così un meccanismo di causa ed effetto, difficile da interpretare con esattezza, anche a parecchi anni di distanza. Furono le macchine ad allontanare la gente dalle fattorie, oppure entrarono nelle fattorie per sostituire la gente che se ne stava andando a lavorare in fabbrica, nell'edilizia e così via. Forse sono vere entrambe le cose. Ciò che allora non era ancora chiaro era che quel tipo di processo si sarebbe sviluppato e accelerato sempre più, fino a sfilacciare completamente il vecchio tessuto del lavoro delle famiglie e dello scambio di manodopera tra vicini. I nuovi metodi agricoli rappresentavano una forma di dipendenza basata non sulla terra, sugli esseri viventi e sulla collaborazione coi vicini, ma sulle macchine, sul carburante e su ogni genere di prodotti chimici, su beni comprati e sui loro rivenditori. E in ultima analisi si trasformavano in una completa dipendenza dal credito. La cosa strana era che la gente era convinta che tutto quel comprare e prendere soldi a prestito avrebbe reso più facile la vita delle piccole fattorie. La maggior parte di loro a quell'epoca non immaginava che di lì a poco, così facendo, molti contadini avrebbero abbandonato l'attività e che proprietari di appezzamenti sempre più grandi si sarebbero fatti la guerra tra loro o con i ricchi provenienti dalla città per accaparrarsi tutta la terra disponibile. Sarebbe venuto il momento, in seguito lo si è visto chiaramente, in cui non ci sarebbero stati più coltivatori a sufficienza e le fattorie di Port William, come quelle della California, avrebbero dovuto dipendere dal lavoro degli immigrati stagionali. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine dal libro di Wendell Berry, Jaber Crow, storia della vita di Jaber Crow, barbiere, membro della comunità di Port William, scritta da lui medesimo. Lindau, 520 pagine, 24 euro. Letture di Radio 24. Lo scorso anno sono stati proclamati 397 scioperi del trasporto pubblico, ma i risultati ottenuti sono quasi pari a zero. Alla fine ci rimettono sia i pendolari che i lavoratori, mentre le aziende ci guadagnano. E così c'è chi inizia a pensare a forme di protesta alternative, come ad esempio rimborsare i biglietti quando i passeggeri sono costretti a viaggiare in condizioni di disagio, in modo che sia l'azienda a rimetterci. Controordine, tranvieri. Scioperare non paga. Parola di sindacato, o almeno di una sua parte. La CISL dei trasporti, che lancia una campagna per lo sciopero intelligente. Con un contratto di categoria scaduto già dal 2007, 13 scioperi nazionali effettuati e altri grandi e piccoli proclamati al ritmo di uno al giorno, arriva la presa d'atto. Lo sciopero dei mezzi è su un binario morto, come recita uno degli slogan della campagna, che propone di far sì che le agitazioni di autisti e macchinisti non danneggino troppo i diritti degli utenti. Ma come? rimborsando loro il biglietto o una parte dell'abbonamento, quando sono costretti a viaggiare pigiati come sardine sui mezzi che girano nelle fasce protette, quando c'è sciopero nazionale. E facendo in modo che le agitazioni colpiscano anche i conti delle aziende locali di trasporto pubblico. Nessuno sciopero a rovescio, né proteste virtuali o creative, soltanto mezzi fermi e pendolari parzialmente rimborsati. Basterà per cambiare quello che la stessa Commissione di Garanzia ha definito ormai come uno sterile rituale privo di effetti concreti? Emerge una certezza. Lo sciopero, così come l'abbiamo conosciuto e fatto, è diventato inutile. Lo scorso anno quelli proclamati nel trasporto pubblico locale sono stati 397. Qualcuno è rientrato, altri sono stati unificati. Altri ancora, non messi nel conteggio, sono stati proclamati senza preavviso, modalità selvaggia. Tutti insieme fanno un'arma spuntata, dice oggi la FIT CISL, che fa sapere ai suoi e ai cittadini: abbiamo un problema. Lo spiega Giovanni Luciano, segretario generale dei Cislini dei Trasporti. Ogni volta che scioperiamo nel trasporto pubblico ci rimettono i lavoratori che perdono lo stipendio e i cittadini che non possono usare i mezzi. Mentre le aziende guadagnano 3 volte, risparmiano sui salari e sul gasolio per gli autobus che non escono e in moltissimi casi prendono lo stesso i contributi pubblici. Un affare. Che secondo il Cislino Luciano spiega l'atteggiamento delle aziende di trasporto e delle loro associazioni rispetto agli scioperi dei loro dipendenti. Totale indifferenza. In altre parole, gli facciamo un baffo, chiosa Andrea Gatto, che schiererà anche il suo sindacato, la Faisa CISL, una delle sigle più agguerrite degli autonomi nei trasporti, ai banchetti CISL a raccogliere le firme per la proposta di legge di iniziativa popolare per lo sciopero intelligente. Che, oltre a dare agli utenti i rimborsi per il poco e scomodo trasporto nelle giornate di sciopero, introdurrebbe un'altra novità. Quando si fa uno sciopero nazionale nei settori dei trasporti sovvenzionati con i contributi pubblici, le imprese perderanno i soldi dei rimborsi regionali, che andranno invece ai fondi bilaterali di solidarietà, a finanziare corsi per riqualificare i lavoratori o altri sostegni per crisi occupazionali. Tutto ciò non vuol dire che quest'anno avremo una tregua nella guerra quotidiana del trasporto pubblico, non solo perché su questo la stessa FIT CISL non garantisce, dipende dalle dinamiche che si creano, ma anche perché le sigle e le vertenze sono tante quante sono le città italiane. La Commissione di Garanzia sugli scioperi, dal canto suo, non si esprime ufficialmente sulla proposta dello sciopero intelligente, ma aveva già messo nero su bianco nella sua relazione annuale il rischio che gli scioperi nei servizi pubblici essenziali diventino uno sterile rituale privo di effetti concreti. Il suo presidente, Roberto Alessi, chiama però in causa governo e regioni, più che le aziende e i sindacati. Il settore del trasporto pubblico locale è al collasso e non si fa niente per affrontarlo. Molte regioni hanno speso i fondi dei trasporti per ripianare i debiti della sanità. Servono investimenti produttivi e la capacità di calarsi nel merito delle controversie di lavoro, non solo contare le ore di sciopero. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo di Roberta Carlini «Lo sciopero dei bus si fa lavorando», dall'Espresso del 5 ottobre. Ogni volta che rivedo Billy Elliot mi viene in mente l'undicenne in calzoni corti che sono stato, dice Elton John a proposito del film di Stephen Daldry. La storia del figlio di un minatore che riesce a diventare ballerino sfidando tutti i pregiudizi è stata trasformata da Elton in un musical di grande successo che ora a sua volta diventa un film. Divo Pop è l'autore delle musiche dello spettacolo che da tanti anni è un successo sui palcoscenici di tutto il mondo, da Londra a Broadway. Ora il musical è anche un film, Billy Elliot, il musical live. Il cantante, identificandosi con il protagonista, ricorda le scelte dell'adolescenza. Provai una grande gioia quando fui ammesso con una borsa di studio alla Royal Academy of Music. E poi rivendico il mio coraggio, le decisioni che a tanti parevano sbagliate. Ho avuto periodi di grandi depressioni, ma dico a tutti, bisognerebbe sempre sentire al fianco Billy Elliot quando si perde l'equilibrio o qualcosa ci ferisce. Nel 2005 il regista Stephen Daldry chiamò Elton John per la produzione teatrale e gli chiese di comporre i brani. «Avevo il batticuore come uno studente alla prima prova», dice Elton. «Quando lo spettacolo andò in scena a Londra, piansi di commozione per gli applausi». But we go dancing. And he'll hold me tight. He was air, he was water, he was breath, he was life. Irruente, con il suo temperamento passionale, prosegue. Sono felice che ora lo show sia un film, perché quel ragazzino, il figlio di un minatore che aspira a diventare un ballerino contro ogni pregiudizio, parla al cuore di tutti gli artisti e a quello della gente comune. Billy rivendica il diritto e la libertà di poter diventare chi vuole essere. Io ho sempre pensato a lui come a un giovane invincibile. What the hell is wrong with expressing yourself, being who you wanna be? Will anybody die if you put on a dress? Who the hell cares if your blush is a mess? Start a new fashion, fuck all the trends, emphasize integrity. 'Cause what the hell is wrong with expressing yourself, wanting to be me? Ho sempre lottato contro ogni discriminazione. Certo, anche per questo mi sono immedesimato in Billy Elliot, dileggiato per il suo amore per la danza. Sono sempre in prima fila quando si tratta di sconfiggere e mettere al bando ogni preconcetto. Ho due figli amatissimi. A loro cercherò di dare il meglio in senso umanistico e culturale e un giorno per mano li porterò a vedere il tenero e ribaldo Billy. Lo spettacolo teatrale vanta decine di premi prestigiosi raccolti ovunque, dai Tony Awards ai riconoscimenti londinesi. 'Cause I remember you just as you always used to be. Before time had taken toll and stole you away from me. And I wish I could stop time tonight and hold the whole world still and keep you here forever to be mine. Che cosa rende il personaggio Elliot così popolare? Il tenace Billy parla ai sensi e ai pensieri di diversissime culture, anche se le sue radici sono nell'ambiente proletario inglese, spiega Elton. Oggi i giovani più che mai hanno bisogno di sentire che possono farcela, che riusciranno a trovare le loro strade e identità, ossia la loro voce nel mondo. Secondo il cantante e regista Daldry, ha saputo rendere nello spettacolo teatrale anche il senso della comunità di gente umile e le loro lotte. I temi sociali ci sono tutti e non è un caso che in Gran Bretagna il film ha conquistato di recente il box office. Billy ha steso al tappeto i supereroi con la sua grazia. Il percorso di questo ragazzino, che alla box preferisce la danza, in una Inghilterra percorsa dalle fratture della politica thatcheriana, è quanto mai attuale e insegna a tutti la tolleranza. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo di Giovanna Grassi, Elton John. Mi rivedo ogni giorno nelle inquietudini di Billy Elliot, dal Corriere della Sera del 6 ottobre.